Tanto la prima cosa da fare è ringraziare Alberto che ci ospita, come sempre, Giusto. allo studio Campobario, e ringraziare ovviamente Antonio Sixti che appunto da Milano viene a presentare questo che è il suo ultimo libro pubblicato da Icona Liber, che è la casa editrice di Fabrizio Rossi, che così riprende le pubblicazioni di questa collana che si chiama Sui scrittori di ricerca, che per un periodo è stata ha rallentato le proprie pubblicazioni. Questo è il primo libro della collana che non ha l'autore in copertina, ce l'ha sulla posta, ma non in copertina. E in copertina abbiamo un enigmatico NZ in lettere minuscole perché è la grafica della casa editrice, ma poi già nel frontespizio lo troviamo in maiuscolo, NZ maiuscolo. E se ancora avanziamo nel libro, e troviamo l'autore che è Antonio Sixti, se avanziamo nel libro poi troveremo questa NZ che possiamo svelare, un segreto che non è un segreto, sta per Nuova Zelanda, lo troviamo anche articolato in altre forme che tra poco diremo. Dunque, che cos'è NZ e perché non c'è l'autore in copertina? L'autore in copertina non c'è perché, a parte che sta qui, però questo non vuol dire, però. E il fatto sta che è in realtà questo libro una sorta di calamita, di scatola, di archivio, di luogo di tante voci, è un io e un altro, ed è una collezione di altri e di alterità, e di conseguenza come tale l'autore in copertina c'è non c'è, è meno presente di quanto no, normalmente noi ci aspetteremmo in un libro che potremmo fare anche inquadrare nell'ambito della poesia, ma in realtà se poi si guarda il libro ci sono dei versi, ci sono delle parti che vanno a capo, ma la gran parte del libro è fatto, come probabilmente adesso scorrendo si vedrà, di anche materiali grafici. Fotografie e vediamo un gigantesco ZN perché la N e la Z si possono trasformare l'una nell'altra ruotando di 90 gradi. Questo gioco spiega quindi non soltanto il fatto che c'è una flickering identitario, quindi uno sfarfallio identitario sul versante autoriale, ma c'è anche sul versante del titolo, perché la N diventa Z e la Z diventa N. E c'è anche dal punto di vista dell'idea stessa di Nuova Zelanda, che è una regione che si trova agli antipodi dell'Italia e sostanzialmente alla forma di un'Italia rovesciata, come di fatto verso la fine del libro si dimostra con un disegno che adesso cerco di mostrarvi, ma che probabilmente avrete già visto sfogliando il libro, perché è un vero e proprio stivale rovesciato. Quindi è come una sorta di anti-Italia, in qualche modo. Questo libro viene, Pagina 26, eccolo. NZI, Ah, non so perché alla fine del libro lo pagina trovo per la 26. memoria, invece no, è quasi all'inizio, 26, e si vede appunto questo rovesciamento. E quindi da capo. Quindi siamo agli antipodi dell'Italia, forse siamo anche agli antipodi del classico libro di poesia, come ci si può immaginare di dover collocare un'opera di questo tipo. E quindi questa opera rientra a pieno titolo in questa collana che appunto fa riferimento alle scritture di ricerca, che sono spesso quelle scritture che semplicemente si incaricano di mescolare le carte, mescolare i generi, o meglio, non dar più per scontato il fatto che i generi letterari siano quella cosa che abbiamo ereditato in maniera fissa e rigida nella forma romanzo, poesia, eccetera. Quindi iniziamo col dire questo: questa è un'opera scompaginante che in qualche maniera si retrovolge anche sempre su se stessa, perché anche la qualità di essere, oltre che un viaggio in un esperimento che è iniziato nel 1980 e di cui tra poco Antonio magari ci dirà qualcosa, anche un accumulo di dati e informazioni su quello che quell'esperimento rappresentava, e si parte da un esperimento di carattere performativo, adesso appunto Antonio ce lo dirà. Ma è anche un discorso metatestuale che quindi non soltanto raccoglie documenti e materiali che dal 1980 portano ad oggi, quindi con un arco di tempo abbastanza ampio di elaborazione, poi di scrittura e di organizzazione di un testo così concluso. Ma in più è anche un testo che riflette su se stesso nel suo farsi, e quindi ci sono dei frammenti che chiaramente ragionano sull'organizzarsi del testo in questa forma. Ora, è un altro paragone che potremmo fare per questo libro, una specie di scatola o luogo che calamita dentro tantissimi materiali, documentazioni appunto fotografiche, soprattutto relative al decennio degli anni 80 e successivi, materiali diaristici, lettere, manifesti, c'è una sorta di manifesto di un movimento di cui anche ci dirà qualcosa Antonio, che si chiama O, punto esclamativo, Art, con Art tutto maiuscolo, e ancora altri materiali, appunto cartine geografiche, personaggi inventati, spiegazioni o appunti sui movimenti dei performer di cui appunto stiamo per dire, e tutto questo è come se fosse una nuvola di ferrite che una calamita al centro di questa scatola attira a sé, ma in maniera un po' particolare. Noi sappiamo che le particelle di ferrite poi alla fine si orientano in un certo modo, no? Formano anche delle eleganti figure geometriche, e questo non è il caso. L'interesse di Antonio Sixti in quest'opera, come in sostanzialmente si può dire in tutto il progetto di cui quest'opera è parte e che lo impegna da vari decenni, è proprio quella di in realtà far convergere materiali altrui, giocando sull'identità di chi fa convergere questi materiali in maniera assolutamente anti-architettonica. Con questo non vuol dire che il libro sia disordinato, ma sicuramente non corrisponde a quell'ordine che noi normalmente attribuiamo a un testo che produce senso nella forma della poesia o nella forma del racconto, anche se alla fine del libro ci si accorge di aver attraversato un racconto, il racconto di una performance che viene fatta appunto proprio nel 1980 a Milano, e il racconto di personaggi immaginari barra reali, più reali che immaginari in verità, che vengono convocati più volte nel corpo del testo, e dei loro rapporti, perché questi personaggi si scambiano lettere, si scambiano movimenti e vivono di una vita che è continuamente, tra l'altro, sottoposta al gioco generale in cui questo libro eccelle, che è il gioco della finzione, della falsificazione dell'identità e della ricerca anche di ciò che di veritativo c'è nel nostro produrre senso, quando proprio si gioca sull'identità e sullo scambio dell'identità. A un certo punto, addirittura dalla pagina 46, dopo che questi 10 personaggi che fanno parte di questa performance sono stati sottoposti a tutta una serie di istruzioni, viene lanciato dal libro un allarme sulla presenza di un sosia di Antonio Sixti che si aggira in qualche modo per la città. E questo da capo rientra nel discorso del giocoso, ironico, scherzoso, continuo percorso di scambio tra realtà e finzione, che appunto, come dicevo, non riguarda soltanto questo libro, ma di cui questo libro rappresenta un tassello importante, che è appunto un progetto più ampio di cui Antonio magari ci vorrà dire qualcosa. Sì, allora, io... Cioè, quello che devo dire, quello che posso dire è questo, che quando poi io apro, me l'ho dimenticato il libro, perché con Fabrizio l'avevamo fatto, quando lo apro mi sembra che non l'abbia scritto io, cioè veramente sono anche un po' preoccupato di questo. No, cioè riconosco dei pezzi oppure no. Dunque, è successo questo, che nella mia attività io, partendo dalla scrittura, la scrittura però come non scrittura lineare, come una scrittura diciamo così non asemica, ma una scrittura poetica assolutamente, che tendeva a manipolare tutta una serie di informazioni, dati, emozioni, sentimenti, eccetera. Questo qui in giovanissima età, quindi non, non, diciamo, negli anni, quando avevo 14-15 anni, mi piaceva scrivere cose che paradossalmente non avevano un gran senso, rilette poi nel tempo. Però da quell'epoca io le ho ottenuto tutto quello che scrivevo e tutto quello che raccoglievo, quindi diciamo che sono un raccoglitore essenzialmente di me stesso, cioè pensando che io sia raccoglitore di quello che essenzialmente sia interessante raccogliere, quindi è riferito in qualche modo a me. Quindi c'è una narrazione che si crea anche automaticamente, cioè se io raccolgo un biglietto, un tram per terra, eccetera, diventa una parte, ho preso quel tram, non l'ho preso, insomma questi film, diciamo così, mentali miei, eccetera. Poi la scrittura si è trasformata in installazione e performance, cioè la scrittura mi è servita essenzialmente per, come dire, progettare un'azione all'epoca si chiamava azione o teatrale o performance d'arte, eccetera, eccetera, però poi la scrittura, la parte della scrittura rimaneva sotterrata e non veniva evidenziata, perché poi quello che veniva evidenziato era l'azione o appunto l'installazione, i performer, quello che era. Quindi tutto questo io ho cominciato a farlo davvero ancora negli anni del liceo, e paradossalmente però pur avendo questa compulsione a raccogliere tutto, alla fine tutto questo materiale si è, come dire, archivizzato da solo, si è catalogato da solo in maniera imprecisa oppure no. E da questo, poi a un certo punto nel 2015 o 14 o 15, una ricercatrice inglese, italo-inglese, che lavorava a Londra all'università, adesso non so quale università, non me lo ricordo, mi scrisse una mail dicendo: io vorrei venire in Italia a trovarla per fare un dottorato di ricerca sul suo lavoro. E io tutto sommato, prima ho pensato uno scherzo, un'ennesima cosa di questo, poi le ho risposto e questa è davvero venuta. E questa si chiama Flora Pitrolo, e lei è perché il padre inglese e madre siciliana, o madre siciliana e padre inglese, adesso non so come, non mi ricordo più, però lei è venuta e io non sapevo, lei doveva scrivere, lei aveva trovato a Londra un catalogo perché io avevo fatto delle performance in uno spazio abbastanza, quelli che si chiamavano spazi multimediali dell'epoca, stiamo parlando prima degli anni 80, avevo fatto una performance lì, mi ricordo che c'era anche una bella mostra nell'ingresso, insomma, che si chiamava Famiglia Horror, questa performance, di cui ho chiaramente tantissimo materiale scritto, che potrebbe diventare un altro di questi qua. Non si intitola NZ o MZ, ma Famiglia Horror. Famiglia Horror. E l'avevo fatta a Londra in inglese, cioè la produzione si era spostata là. Paradossalmente era stato fatto un catalogo dove c'erano tutte le presenze che venivano da tutta Europa. Lei casualmente trova questo libro su una bancarella, anzi glielo regala al fidanzato che faceva il coso, e mi telefona e coglie al balzo l'idea di poter fare un PhD, quindi un lavoro di strutturato su quel tipo, sulla performance di quegli anni. Quindi è venuta in Italia. Perché racconto sto fatto? Perché quando lei è venuta in Italia io non sapevo che cosa dirle, perché nel senso che tutte le cose che io mettevo dentro le scatole del catalogo e delle cose, io poi me le dimenticavo, quindi non mi appartenevano più, cioè mi appartenevano alla scatola, all'archivio, quello che io chiamo l'archivio. E le ho detto: guarda, io ti apro, c'era un sottoscala dove c'erano tutte queste scatole e tu fai un po' quello che vuoi. E lei è stata una settimana, si è fotocopiata tutto, eccetera, eccetera. E io non ho mai visto quello. Poi a un certo punto ha dovuto cominciare a scrivere, quindi ha cominciato a coinvolgermi. E io, vedendo tutti questi materiali, che sono tutti materiali scritti, sono tantissimi, fogli su fogli, cioè anche questo è un distillato di quello che era Nuova Zelanda, insomma, la performance, e mi sono ritrovato con questo materiale e tutto sommato mi sono appassionato a questo materiale in generale. Poi, anni dopo, ho conosciuto Michele Zaffarano, eccetera, eccetera, e da lì ho cominciato a riprendere i contatti, perché in quegli anni io comunque avevo la frequentazione con scrittori, poeti, che potevano essere da Salengo, che era più un artista, un poeta verbovisivo, insomma, Isaia Mabellini, in realtà poi si faceva chiamare Salengo, però faceva lotta poetica, eccetera. Tutto il gruppo di Firenze, quindi Micini, eccetera, e tutta la Ori, banda di sì. Ori, esatto. Gnocchi. Il gruppo di Milano, perché quando facevo liceo io mi ero appassionato a tutte queste cose qua, e quindi Milano, Isgrò, Torino, Arrigo Lora, Tottino, poi è tutta una. E andavo a trovarli tutti, mi facevo dare tutti, loro mi regalavano i loro libri, le loro pubblicazioni, cose così. E quindi questo durante gli anni del liceo. Per cui io avevo una frequentazione di un certo tipo, fino ad arrivare a Milano a Balestrini, a Nanni Balestrini, che poi che tutti sappiamo che Nanni Balestrini era un grande facilitatore di contatti. Dice: ah, ma tu Certo. scrivi questo, ma allora devi andare da quello. Quindi mi ha messo in contatto con Sì. tantissime, anche con Adriano Spatola. E quindi tutto questo materiale. Poi io sono arrivato, diciamo così, a interessarmi della scrittura attraverso questi scrittori fino a un certo punto, posso citare dei nomi, diciamo, fino a quando la scrittura poi non ha preso la piega di Milo De Angelis, Coviello, fino ad arrivare anche a Maurizio Cucchi. Tanto è vero che io al Teatro Litta, quando sono arrivato, a un certo punto c'era un poeta che si chiama Pellegatta, e abbiamo organizzato anche degli incontri di poesia dove c'era Maurizio Cucchi, eccetera. Però era una scrittura che a me non interessava, però tutto sommato, come dire, mi piaceva creare delle situazioni intorno alla scrittura. Detto questo, tutto questo archivio, perché la faccio lunga? Perché io ero estraneo ai miei materiali, non ero coinvolto dai miei materiali di scrittura. Poi ho iniziato un po' a editarli, nel senso a riportarli dalla macchina da scrivere che c'era una volta, perché prima c'era quella qui, così, poi quella elettrica con la pallina che girava, e a riportarli in digitale, perché sennò questi materiali poi si. E quando ho cominciato a fare questo lavoro, mi sono divertito a ricomporre quei materiali lì. E quei materiali lì, poi gli ho dato anche a quei materiali che avevo mandato a Michele, poi avevo mandato forse anche a Sì. te, eccetera, eccetera. A un certo punto, per qualche motivo, Michele mi ha fatto conoscere Daniele Poletti, e Poletti mi ha detto: ma tutto questo materiale è inedito, beh, io lo editerei. Io ho detto: ma come fai a editare tutta sta roba? Ma si può fare, eccetera, eccetera. Quindi, essendo estraneo a questo materiale, è come se lo avessi ricomposto, quindi non riconoscendomi nel materiale. E questo materiale, questa prima ricomposizione di questo materiale di archivio, arriva fino all'80. Ovviamente, poi dopo l'80 ci sono una serie di estratti, e uno di questi estratti è proprio Nuova Zelanda. Nuova Zelanda nasce da un teatro, da quello che si intendeva come forma di arte o teatro concettuale, insomma, di continuo spostamento di luoghi e di contesti. Tanto è vero che io ho studiato ho preso concettualmente un'area geografica come poteva essere l'Italia, l'ho rovesciata, è diventata la Nuova Zelanda, e da lì ho cominciato ad accumulare materiali di narrativi, non narrativi, finto narrativi, eccetera, eccetera, e ho cominciato a metterli insieme, e mi servivano per fare la performance. Quando poi ho fatto la performance, che è andata in scena, che è stata fatta una sera o due sere. Siamo nel 1980, siamo in Viale Forze Armate, io avevo scelto una discoteca che si chiamava Odissea 2001, anche lì avevo scelto proprio la discoteca per il nome, non tanto per, diciamo così, perché tutto il discorso era concettuale, capito? Cioè, quindi andavo per via così. E adesso questa discoteca non c'è più, c'è un palazzo, non c'è più questa discoteca. E lì ho organizzato questa performance, che in realtà poi non si componeva, per capirci, i materiali scritti accumulati per costruire poi la performance venivano assolutamente ributtati dove stavano, e non Missili. c'entrava niente. Le uniche cose che sono sopravvissute, diciamo così, sono quegli schemi di movimenti che dovevano fare questi performer. Un piccolo aneddoto: uno di questi performer era Claudio Bisio. Questa è proprio una curiosità, cioè, perché con i capelli, perché avevo i capelli, perché io ho coinvolto una serie di ragazzi che conoscevo, che facendo la scuola che facevo all'epoca, in realtà non ne avevo ancora iniziato, e in questi schemi, diciamo così, c'erano questi movimenti. In realtà poi ci sono disseminate altre tracce di questa performance. Ci sono delle foto di scena a un certo punto, no? Ci sono delle foto di prove, fra virgolette, di movimenti. Avevo chiesto una sala prove, eccetera. Poi ci sono delle foto di c'è anche una foto della discoteca, però è molto, perché insomma sono foto di fortuna, deve, che si ritrovano così in questo archivio, però è davvero così tanto il materiale che si fa fatica a anche scegliere. Sì, essenzialmente questo poi alla fine, quindi e questo è un distillato. Allora, mettendolo insieme, quando più di 2 anni fa Marco mi aveva chiesto se avevo una cosa, ho detto vabbè, provo a lavorare a questo progetto qua, che è già posteriore, diciamo così, come cronologia al tempo diciamo dei materiali che invece usciranno per Poletti, che sono 300 pagine. Però la cosa vera è che anche quando è uscito questo, Daniele allarmato mi chiama, ma dice, ma scusa, ma questo non fa parte, ma di che cosa fa parte? Ho detto, Daniele, è vero, non ti ho mai spiegato veramente com'è tutto. Questo progetto l'ho chiamato The 40 Years Later Project, il progetto 40 anni dopo, così un po' ironicamente, e di cui fanno parte tutti questi estratti essenzialmente. Quindi i materiali, in parte veri o finti, che ci sono in questo, tendono a creare tendono a creare una forma di romanzo, secondo me. Sì. È vero, è più romanzesca la storia. Un romanzo situazionista quasi. È un pochettino sì, dove ci sono ovviamente incontri e di lettere o di esperienze, dialoghi di altri, eccetera, dove c'è anche, come dire, un po' di influenza, però non saprei dire dove. Quando, perché Nuova Zelanda è comunque una zona concettuale che continuerebbe a spostarsi. Quando uscì un po' di anni fa ormai da quel genio di J.J. Abram, Lost, se vi ricordate, l'isola si spostava, cioè adesso chi l'ha visto, io l'ho visto perché chiaramente faceva parte, perché c'era questa cosa della confusione dei tempi e delle narrazioni e delle storie personali, quindi era una cosa che mi interessava, anche lì c'è l'idea di un'isola che si continua a spostare e quindi non esiste. In realtà questo è un territorio linguistico, romanzesco, eccetera, che poi tutto sommato non esiste, cioè in realtà sono anche, volendo, anche delle riflessioni banalmente sull'arte o sul fare arte, essendo io comunque, la mia formazione è più legata a tutta l'arte concettuale, Sollevit, non so come si dica, e tutta quella Joseph Kossuth e tutta una serie di artisti, oltre che la parte che chiaramente mi riguarda di più, che è quella dell'installazione dell'Happening alla Kaprov, eccetera. Quindi io vengo da quel tipo di mondo, non conosco è come se non conoscessi, diciamo così, sì, lo conosco, però per me cioè, è chiaro che sì, posso dire Damien Hirst, però per me è più, come dire, faccio riferimento più, come dire, ad altre cose, certo, che vanno più indietro, cioè Più smaterializzata, insomma. È più smaterializzata, cioè, essenzialmente più smaterializzata. Proprio quando tu iniziavi questi progetti, in qualche maniera l'arte stessa ritornava retinica, per dirla con Duchamp. Esatto, per dirla con Duchamp. Tornava la pittura, in poesia andava recuperato, Achille Bonito Oliva, eccetera, eccetera, tutto quanto. Però tutto sommato sono fortemente legato a un tipo di... cioè il falso creato da Damien Hirst a me interessa, ma tutto sommato mi interessa di più, cioè, come dire, mi appassiona molto di più molte costruti piuttosto che alcuni artisti, da Beuys, insomma faccio confusione facendo tutti questi nomi, però sicuramente appartengo più a quel versante, che al versante del paperino incrostato di Gozze, certo. Capito? Sì. Cioè, no, per sì, carità, sì, sì. Tu, chiaramente è geniale nel suo, probabilmente è geniale nelle prime opere, come sempre succede, chiaramente, perché non ce la si fa a mantenere un livello in certi casi, soprattutto quelli di adesso, poi quelli che basta vedere cosa è successo fra l'Abramovic è un là, insomma, voglio dire, a un certo punto uno è sparito, però quello che è sparito era quello che contava, cioè, per me. Quindi è un po' questo il tipo di procedimento che è alla base di questo, cioè di queste pagine, di questo finto romanzo, tanto è vero che poi si conclude addirittura, se non sbaglio, vabbè, a parte l'appendice finale, che sono dei dépliant, delle cose che utilizzavo, si conclude addirittura con citando citando appunto l'Infernale Queenland di Orson Welles, un pochettino quella, la sequenza finale del la sequenza iniziale, perdonate, la sequenza iniziale molto famosa della, è semplicemente come uno sguardo dall'alto di una serie di avvenimenti che vengono concatenati per una ripresa filmica, ecco. È un, certo. po che, un po' è stato fatto anche in questo modo. Certo. Cioè io ho pensato in questo modo qua. Tanto è vero che c'è la presentazione degli esploratori. Sì, che il libro inizia con tutta una serie di personaggi che sono 9 poi. Che sono realtà, 9, sì. E quindi non sono poi i 10 che sono sì, gli sono, attori. No, non c'entrano niente. Che nel 1980 poi. Sì, essenzialmente sono dei nomi tutelari finti di questa, in cui poi... Nuova Zelanda, in cui che presentano questa sorta di costellazione. Beh, puoi leggerne qualcuno forse? Sì, beh, ce ne sono... Io gli ho dato poi dei nomi, però per esempio il primo... Chi è? Sirio o Stella del Cane è stato anche, cioè è stato anche Dirk Rembrandt van Nierop, 1610-1682. Dirk ha svolto il mestiere di cartografo, pur essendo un matematico, ha lavorato come agrimensore per un certo tempo, compiendo misurazioni dei terreni, divisioni di lotti, rettifiche di confini che saranno state utili ai fini catastali, notarili o di estimo, ma anche al tempo in cui scriviamo ci fanno sorridere pur mantenendo un certo rispetto per la sua opera. Ma che al tempo in cui scriviamo ci fanno sorridere. Durante il tempo della nostra avventura, Dirk barra Sirio ha svolto il ruolo di astronomo e dobbiamo ammetterlo senza vergogna, è stato anche un fidato calzolaio, alcuni ne hanno approfittato, beati loro. Nella sua vita ha intrapreso la missione di insegnante mennonita, poi c'è un richiamo a chi sono i mennoniti, ciò è avvenuto nel XVII secolo. Nel corso degli anni e di una vita fruttuosa e memorabile, Dirk ha visitato diverse volte il filosofo René Descartes a Egmond Binnen. Si racconta che il filosofo fu così impressionato dalla conoscenza di Van Nierop che lo segnalò persino a Constantin Huygens e Franz van Schotten, offrendosi di commissionare un ritratto niente meno che a Sir Anthony Van Dyck. La cosa non andò mai in porto, maledette i propositi positivi. Non dovremmo scriverlo, anche perché è risaputo che nelle biblioteche olandesi attuali compaiono più di 30 pubblicazioni scientifiche a suo nome. Ultima nota di merito, nel tempo libero ha anche progettato molti meridiani. Per molte società di navigazione e navigatori è stato una vera e propria risorsa nel campo delle carte nautiche, lavorando come consulente, diremmo oggi, per la Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Questo è uno delle varie stelle, diciamo così, che aprono il cammino in questa Nuova Zelanda. Ecco. Canopo, Alfa Centauri, sì. Mimosa, che appunto sono le stelle, ma sono anche le star di questo cinema. Sono le star di questo cinema paradiso. Che poi si scambiano delle c'è come una sequenza di lettere che comincia, se non sbaglio, a pagina 14, che poi in realtà sono slegate l'una dall'altra, cioè sembra che si stiano scrivendo. No, non è vero, non si stanno scrivendo. In realtà sono lettere di altri. Appunto, vanno completamente derubricate da questa idea. Sì, anche perché non possono centrare. Sì, sembra che loro si scambino dei... Però poi non le colleghi. No, non riesci a collegarle. Perché poi ci sono le dediche, perché queste performance erano... come dire, anche avevano tutte tutta una serie di dediche. Adesso non mi ricordo qual era la dedica originale di questa performance, aveva una serie di dediche, però qui ci sono delle dediche al navigatore olandese, al navigatore inglese, navigatori francesi e a Orson Welles, che è un altro tipo di navigazione fa, ecco. Certo. E poi ci sono le lingue utilizzate maori come fossero, diciamo, delle... E così va avanti, quindi si crea una forma di indagine, di un po' una detection story, però finta, ma non è un romanzo che non è un romanzo, insomma. Esatto, anche che poi da un tratto all'altro del libro sconnette anche il sistema, diciamo così, sì. Finzionale che ha creato. Si è creato un sistema finzionale relativo alla epistolografia, e in realtà scopriamo che queste epistole non sono delle epistole, non parlano tra di loro questi personaggi. E poi si interrompe quella sequenza e ne comincia magari un'altra più legata alla trascrizione di un certo tipo di lavoro, appunto, scenico. Incominciano a essere tratteggiate le figure dei 10, di questi 10 performer, sì. Che devono, tra l'altro, scambiarsi di base. Questa cosa, sì. Delle basi mi ha fatto un po' pensare al baseball, cioè, sì, c'è qualcosa un po', sì. Perché c'è un passaggio da... Come se fosse una sorta di schema di gioco. Schema di gioco, uno, esatto. Schema di gioco. Però tutte queste basi soffrono tutte di qualcosa. Cioè il numero uno soffre di asma, esatto. Il numero due soffre di sinusite, sì. Il numero tre soffre di acufene, il numero quattro soffre di sciatalgia, il numero cinque soffre di nostalgia, il numero sei soffre di malinconia, il numero sette soffre di reumatismi, il numero otto soffre di cervicale, il numero nove si fa spesso il bagno e non soffre, il numero dieci soffre di forti emicranie. E però loro sono un po' i personaggi indicati che devono fare tutta una serie di azioni che in parte sono state rispettate, perché i convenuti a questa performance stavano sui quattro lati, diciamo così, di queste piste da ballo. Poi c'era tutta una parte video, eccetera, eccetera, una forma di anche quella di... come dire, una finta detection anche lì, perché comunque c'erano delle telecamere che riprendevano delle parti, solo delle parti dei corpi, eccetera, per come la ricordo io. Ed è stato, quindi c'era anche il mezzo video, media fotografico e musicale, perché c'è anche un gruppo musicale dentro, all'interno, che doveva comporre delle musiche all'interno, per far muovere questi personaggi, certo. Questi attori, che, di cui però erano solo delle forme che avevano più a che fare con certi esperimenti di, per dirci di... c'era anche il periodo della New Dance americana, tipo Trisha Brown e tutta una serie di artisti di quel periodo che lavoravano nella famosissima università del Black Mountain College, insieme a Merce Cunningham, certo. E tutti, John Cage, eccetera, eccetera, dove si creavano questi progetti in cui il corpo, la danza, eccetera, eccetera, diventava... come dire, performativo al massimo, certo. Non nel senso di adesso, perché poi la parola performance è sempre molto ambigua, ecco. Questo, non so se ti ho risposto, ho parlato solo io, però... No, hai risposto abbondantemente. Diciamo, questa parte poi in particolare legata più specificamente alla performance, diciamo che occupa proprio, stavo guardando adesso, la parte centrale del libro, una sorta, sì, di, è un po' la parte centrale, esatto. Documentazione, un po' il cuore. E poi ci sono due elementi su cui, appunto, mi piacerebbe centrare anche l'attenzione. Un elemento è quello di questi mezzi di riproduzione, che possono essere soprattutto la registrazione, ma anche diciamo l'aspetto filmico. Cioè, in vari punti poi del libro si hanno delle vere e proprie trascrizioni di materiali registrati. Sì. E questa cosa qui mi sembra molto interessante, perché uno degli elementi, appunto, che si coglie è che sì, hanno a che fare questi materiali registrati con una vaga impronta relazionale delle voci in campo, sì. Però sono delle voci anche molto sconnesse tra loro e che sì. Non sembrano avere un rapporto, anzi non hanno un rapporto didascalico né rispetto a una possibile sequenza del romanzo, in quanto antiromanzo, comunque in quanto forma narrativa, e né in relazione specifica e netta e diretta con la performance. Quindi sono proprio dei materiali di cut-up quasi grezzi, presi, prelevati e messi sul libro. E questo mi piace moltissimo perché mi ricorda molto anche, e anche qui dal punto di vista cronologico ci siamo, perché andiamo più verso gli anni 60, inizio anni 60 addirittura, che non verso tutto ciò che segue, quindi più verso un certo tipo di anche concettualismo, di idea molto smaterializzata del linguaggio e del suo disinteresse a comunicare, riflettendo sul fatto che esperimenti simili erano stati fatti per esempio da William Burroughs proprio con il registratore a nastro, che era diventato per lui una sorta di droga, nel senso che sì, aveva scoperto nel 1959 grazie a Brian Gysin questa cosa eccezionale che era il cut-up, però si divertiva da matti a registrare, riregistrare, sovraregistrare delle tracce su registratorini portatili. E in questo caso noi ci troviamo di fronte a trascrizioni che grosso modo un po' rispettano quella modalità di produzione, e soprattutto quello che ho notato e che non riguarda soltanto questa parte del libro, ma in realtà anche la parte iniziale del libro, c'è questa alternanza tra il tondo semplice e il grassetto. Già a pagina 22, quindi già all'inizio del libro, quindi prima ancora che si inizi a parlare di, o comunque a raccogliere materiali che riguardano questa performance del 1980, c'è una sequenza che si intitola Invasione di campo, parentesi, anche genealogia di una relazione, quindi vedete come le cose si combinano, no? È come se appunto la parentesi ci dicesse che l'autore o il collettore di materiali, che è meno autore e vuole essere sempre più sdefinito come autore, sta raccontando la storia di una relazione, e poi in verità uno va a leggere e ce la deve trovare questa relazione, non è così scontato. E c'è un'alternanza tra appunto dei frammenti che iniziano tutti quanti con delle parentesi quadre e dei puntini, un nostro rapporto inteso come una collaborazione a cura di, è iniziato a nel luglio 1979 con un'azione che presentammo tu e M. Ancora una lacuna riguardo a quel nostro primo incontro e al modo in cui si è svolto. Ricordo la conversazione registrata sempre nel luglio 79 a fra te e vorrei approfondire un problema che era attuale all'epoca dei fatti e che continua ad essere di vitale importanza. E poi però iniziano qui col terzo frammento, oltre a questi segmenti staccati, che di volta in volta vengono preceduti da una lacuna, per cui noi ci perdiamo tutto un pezzo della conversazione, della riflessione, o comunque del materiale linguistico, ci sono delle schegge in grassetto. L'opera non conclusa è un'ossessione. Adesso ve le leggo in sequenza. Per il gusto di confondere i ruoli, in una rete di relazioni, gli esempi più semplici, struttura di accumulazione, il fuggitivo, lo stabile, il monumentale, un'analogia fra struttura e scrittura, rapporto sensoriale, nonostante il disordine, accetta lo scontro con franchezza, una risposta immediata come un riflesso. E poi finiscono i grassetti fino a un niente grassetto che invece quasi conclude la pagina 24. Quindi sono tre pagine in cui ci sta questa alternanza tra una scrittura che sembra normale ma non lo è perché ci sono delle lacune, e una scrittura che è grassettata e quindi prende attenzione da parte del lettore, e però in realtà non la colleghi né alla parte, ai segmenti staccati, e la puoi però in qualche maniera, come mi è sembrato di poter fare leggendolo in sequenza, leggere come un testo come hai fatto tu. Va benissimo, sì, infatti questa cosa va avanti perché perché questi materiali in realtà sono proprio materiali che si sono mischiati fra loro, che erano in parte delle riflessioni sul fare arte, sul fare performance, infatti hanno un'impronta e sono un po' più teorica, aforistica, diciamo. Esatto. Quasi. Infatti per esempio a pagina 34 siamo sufficientemente lontani dalle avanguardie storiche, essenzialmente perché era l'osservazione di alcuni critici dell'epoca su quello che io o altri stavamo facendo, architettando, e questi materiali si sono poi, come dire, sono infilati come dentro un panino, non so come dire, si è infilato una cosa dentro, capito? E di conseguenza uno può veramente leggerli solo così. Tradizione e avanguardia da un secolo si confrontano e si debilitano. L'inerzia dell'avanguardia è la sua omologazione. La seduzione a livello di moda di AS. Questo è abbastanza chiaro che era riferito probabilmente al lavoro che facevo io. Certo. E va avanti così. Oggettivamente questi materiali sono compresenti, cioè vivono di una compresenza, non sono elaborati in qualche modo. Non è che un materiale, una scrittura risponde a un'altra scrittura, essenzialmente sono semplicemente accostati. Poi l'accostamento che tu puoi fare è leggendo anche l'altra parte e vedere se funziona, quindi può funzionare, no, per dire. Cioè, per esempio, al suo interno deve trovare posto la giustificazione dell'ideologia dello spettacolo, il fuggitivo. Quindi il fuggitivo è in grassetto, la parte precedente invece non lo è. Quindi è un po' elaborato in questo modo. Poi, vabbè, insomma. Quindi, come vediamo, il paesaggio di questo libro è estremamente vario. C'è appunto un discorso anche tipograficamente molto, molto articolato, che dà anche conto della. Che grazie Fabrizio. Perizia dell'impaginatore, sì, del grafico, esatto, okay, dell'editore, che effettivamente ha anche organizzato un testo che in questo modo è perfettamente leggibile. Anche le note a piedi pagina, che spesso sono essenziali per sciogliere alcuni nodi, sono in un carattere veramente molto piccolo e veramente molto nitido e leggibile. E questo, ancora una volta, secondo me, diciamo, questo forse è un po' una sorta di summula dell'idea che io avevo di post-poesia e di scrittura di ricerca. Perché un aggeggio come questo, voglio vedere qual è il libraio che lo mette nella poesia. Poi c'è il libraio che ce lo mette. In effetti non è un problema. Non è un problema. Lo mette, oppure lo mette in teatro, oppure lo mette in romanzi, non lo so. Oppure lo mette in arte, che forse è il luogo che è un po' più talmente smarginato da poter mettere insieme tutto questo. Però è veramente la prova provata che il territorio della post-poesia non soltanto è contemporaneo, è attuale, ma ha delle radici che affondano in una raccolta di materiali che può essere tranquillamente posta, in questo caso, negli anni Ottanta. Però io quello che dico sempre, quasi in maniera ossessiva, è che se un cambio di paradigma c'è stato nelle lettere e nelle arti, non soltanto italiane, ma mondiali, va collocato grosso modo intorno all'anno 1960-61, dove non a caso succede tutto, e da lì è iniziata tutta una serie di smarginamenti, di appunto di generi, di produzioni, di materiali, eccetera, dove i linguaggi si sono mescolati nella maniera più complessa possibile, fino ad arrivare appunto a. Cioè, questo qui è un libro che io trovo assolutamente normale. E che nessuno, cioè così come nessuno va a vedere Inland Empire di David Lynch e a un certo punto si alza e se ne va indignato, insomma, lo può ecco, anche fare. Bravo, hai fatto un esempio importante, lo Inland può anche Empire. Fare. Esatto. Beh, se lo fa, ha perso comunque un'opera, e invece tutti gli altri spettatori stanno seduti e se lo guardano. Però se tu un libro del genere lo porti a una lettura di poesia, quelli che si indignano, si alzano e se ne vanno, ci stanno e come. E quindi, secondo me, il contesto è veramente molto fuori sincrono, quello nell'ambito della letteratura italiana contemporanea, rispetto a quello che può essere la realtà di quello che si scrive. Di quello che si scrive da parte di Antonio Sixi, ma di moltissimi altri che ormai hanno cioè ormai c'è una bibliografia sulla ricerca letteraria abbastanza ampia. Non so se è rimasto qualche numero della Scuola delle Cose, che è questo fascicolo che appunto ricostruisce questi ultimi 20-25 anni, che stanno lì all'entrata, in cui 8 saggisti si sono spesi ciascuno su un tema di questo che sta succedendo in maniera più esplicita in questi ultimi appunto quasi 30 anni, ma che in realtà affonda le radici in quel grosso movimento di cambio di paradigma veramente che interessa già tutta la seconda metà del Novecento. Io avrei anche, prima magari di farti leggere di nuovo, perché poi magari ascoltiamo se ci sono delle domande, volevo effettivamente domandarti proprio quella che è mettere con punto interrogativo quella che è, quello che è uno dei grassetti che tu hai letto poco fa a proposito delle avanguardie. Non so se lo ritrovo, insomma, qual era nel momento in cui, ecco, siamo sufficientemente lontani dalle avanguardie storiche. Pagina 34. Penso che fosse, ecco, una frase di Vittorio Fagone, un critico di un po' di anni fa. Penso che fosse una sua osservazione su questa generazione che iniziava a lavorare, diciamo così, su questi materiali influenzati molto dal pensiero francese, Mirbeau, eccetera eccetera, certo. Guattari, Félix Guattari, adesso il francese non lo so bene, quindi influenzati da quest'idea appunto, certo, della superficie, della, penso che lui, non so, penso che venga da lì quella frase, ecco. No, e quello che mi domandavo era appunto qual era la percezione tua, vostra, se era articolata in senso anche di poetica, di scritti, di appunti, di annotazioni, di come organizzare un testo a quell'altezza rispetto appunto a quella che era stata l'esperienza delle avanguardie storiche, quindi compresa la neoavanguardia, insomma, se c'era o se invece l'interesse era quello di fare cose, perché poi spesso... Allora, l'interesse era quello di fare cose, questa era la prima cosa, che loro dicessero tutto quello che volevano dire, okay. Io ho sempre fatto questo, cioè nel senso, non è mio compito, cioè, certo, voglio dire, io devo fare cose, poi le sbaglierò, le andrò a intuiti, eccetera, eccetera. C'è però c'è stato però un momento in quegli anni lì, alla fine degli anni, soprattutto in Italia, in cui in realtà non si sapeva come parlare, che cosa dire di queste cose, perché non erano scrittura, non erano art performance proprio da galleria, certo, non era teatro, ma erano azioni che si facevano. Ma non erano azioni che avevano a che vedere, come si può dire adesso, magari azioni militanti o azioni di... con un retroterra politico, assolutamente, no? Quindi quando si creavano delle forme di convegno, di raduni, eccetera, eccetera, succedeva veramente che nessuno riusciva a parlare di quello che si faceva. Cioè, io per esempio mi ricordo ancora adesso che di aver fatto una performance con un'automobile, una Volvo, che avevo, mi ero portato dei giavellotti professionisti, dei giavellotti proprio da gara, li avevo fatti acquistare e me li ero portati con questa Volvo, mi ricordo in centro Italia dove c'era questo convegno in cui mi avevano invitato, eccetera. Io, il mio intervento non era un intervento scritto e non avevo nessun tipo di, non avevo nulla da dire, però ho trascinato tutti su un pendio di una collina perché era in una zona, diciamo così, dell'Umbria, che però adesso non mi ricordo esattamente, forse non so, un posto dove c'era un pendino, c'era la io ho portato tutti, quindi tutti mi hanno seguito, ho portato questa macchina lì, poi ho cominciato, era verso l'imbrunire, l'ho lasciata accesa con i fari accesi, tutto quanto eccetera, e ho piantato tutti i giavellotti intorno all'auto, poi ho legato una corda al paraurti dell'auto e ho passato mezz'ora a tirare l'auto urlando vieni, per dire, e ho fatto questa performance che era un po' quello che volevo, però in realtà quello che è successo dopo è stata una gran bagarre, una gran lite il giorno dopo, cioè chi mi dava addosso, chi diceva che non avevo rispettato, in realtà non c'era un copione da rispettare, non c'era, perché teorico, un conto era l'arte, magari, delle gallerie, certo, l'arte del sistema dell'arte, piuttosto che no, un conto era il teatro, diciamo così, di Carmelo Bene, certo, delle cantine romane, insomma, delle nuove avanguardie, eccetera eccetera. E tutto il resto non si riusciva a capire a che cosa potesse appartenere, perché era un po' ibrido e un po' era ispirato, ovviamente quello per me era ispirato a Duchamp piuttosto che no, eccetera eccetera, però tutto questo non c'era una possibilità di riferimento, e in realtà potevano scrivere tutto il contrario di tutto, però in realtà che cosa poteva essere, certo, utile per noi, in realtà non avevamo un confronto. Ecco, questa performance qui per esempio era stata ripresa? Cioè è stata una ripresa? No. Ecco, vedi, ecco, una delle cose che secondo me significative di questo passaggio è il, diciamo, lo svestire l'evento del suo aspetto metafisico. L'aspetto metafisico è anche l'aspetto della conservazione in forma, anche qui, no? Registrata, certo. di qualche cosa. È la presenza del microfono che cambia l'evento e ne fa appunto un idolo. E c'è stato un periodo, e per certi aspetti c'è ancora, è una delle cose che a me personalmente dal punto di vista proprio delle arti interessa di più, in cui la lancetta si sposta tutta sul fronte dell'ontologia, cioè sul fatto, sull'esistenza, cioè sul fatto che tu hai fatto quella cosa, sì, non, e fine, fine, cioè, non esiste, c'è la presenza del pubblico che assiste, che assiste, e che se ne va via divertito o arrabbiato, il giorno dopo che c'è da parlare di quello che hanno assistito, non solo la mia, certo. Nasce una gran bagarre perché non si riesce a capire che cosa poteva essere, quindi c'è, certo, chi ti difende, chi dice ah sì, i riferimenti erano questi piuttosto che no, e altri. In realtà poi ognuno di noi aveva una sua idea nel fare le cose, però non esisteva niente di documentato. Certo. Cioè la documentazione e neanche prescritto magari, no, ecco. Beh, prescritto probabilmente qualche appunto volta, sì. Ecco, nel mio archivio ci appunti. Sono delle cose, certo, sì, certo, di questa cosa però qua. Anche lì il fatto di lasciarle non decantare ma addirittura allontanare e farne poi un'opera che è un'altra cosa è molto interessante, perché si evita la riapplicazione di un'aura, di una entità, di una statura di sacralità, anche se la sacralità in qualche maniera è inevitabile per tanti aspetti, su tante cose, però a quelli che per esempio possono essere gli scores, le istruzioni che Allan Caprow produceva, no? Cioè due persone si incontrano, si guardano, quei foglietti dattiloscritti sono diventati dei testi, no? Sono, esatto, da una parte, quindi dei luoghi sacrali come testi e degli oggetti ovviamente da mettere nel persi, museo. Se non si sono persi, sono l'unica traccia residua. Abbiamo qui, cioè è il principe dei collezionisti. È il principe di questi foglietti, quindi sono delle reliquie, esattamente. Quindi, esatto. E invece c'è tutto un discorso che poi invece è completamente perdersi nell'aria, come si perdeva l'elio lasciato da Robert Barry nel deserto, dove era il deserto del Nevada, adesso non mi ricordo, cioè una delle sue performance era quello di lasciare litri di elio. Ma ti dico di più, dopo un po' di anni, per esempio, ho assistito in un parcheggio nei dintorni di Varese a una performance che era molto simile alla mia. Ed era fatta, in più ci aggiungevano solo dei secchi di vernice che tiravano addosso alla gente. Ed era fatta da questi spagnoli che poi sono diventati la Fura del Baus. Ah, ecco. Cioè, quindi in realtà poi tutto questo, poi man mano, quindi era assolutamente casuale. Sì, certo. Perché non c'era un sistema di analisi o di documentazione, di come probabilmente non c'è stato neanche nella, insomma, Giuseppe potrebbe dire molto più di me e molto meglio di me tante cose casuali che si sono, come dire, che si sono accumulate o si sono dette senza in realtà avere una, però in quel campo lì assolutamente no, perché non c'era l'istituzione e il sistema dell'arte che poteva in qualche modo, come dire, acchiappare un oggetto qualche, esatto, fosse, cioè codificare qualcosa, e dall'altro lato non c'era neanche un sistema che fosse abbinato, che ne so, lo spettacolo dal vivo, la performance, certo, forse, c'è, no? Un telecamera, cioè, alto. Beh, diciamo appunto il discorso comportamentale dell'arte è sicuramente storicizzato, però appunto quando non c'è documentazione è tutto, sì, smaterializzato, e a maggior ragione secondo me un libro come questo è importante, interessante, e il progetto dei 40 anni dopo, perché è un'altra cosa. Cioè non è più, no, l'idea di fotografare l'oggetto mentre sta lì nel momento aurorale della nascita dell'oggetto, l'oggetto ormai è perso, e quello che avviene dopo è un'altra cosa ancora, che è in questo caso si inquadra o si dissipa nei 100 rivoli, in questo caso, della scrittura di ricerca. Sì, esatto. Non so se vuoi leggere magari un passo. Non so che cosa leggere, se me lo devi suggerire tu. Beh, per esempio c'è una parte molto carina che è proprio quella del comunicato, del primo comunicato. Ah sì, perché poi avevo inventato questo sosia che sono io. E divisione, allarmi e pericolosità. Pagina 46. Pagina 46. Comunicato 1, il Sosia, è giunta notizia pochi giorni fa della presenza di un falso AS che si aggira sul territorio dell'isola con l'intento di sostituire l'originale in percorsi alternativi che riconducono a forme e istanze dell'arte concettuale. Il Sosia si comporta esattamente come l'originale, usa lo stesso timbro di voce ed è praticamente impossibile distinguerlo dalla matrice originaria. La notizia è stata diffusa da fonti sconosciute o ritenute tali per riservatezza. Altre informazioni riguardanti il caso suggeriscono la presenza di creature aliene in alcune zone dell'isola. Tali presenze hanno stabilito un codice di comunicazione con il Sosia, imitando a loro volta alcuni gesti, posture e adottando lo stesso linguaggio. Da alcune informazioni più dettagliate degli organi di intelligence che presiedono al governo di sicurezza di NZ, si presume che questa colonia, che viene definita da alcuni agenti sul campo gli A o Them A, sia all'origine della replica del Sosia e che ciò sia avvenuto durante il sonno dell'originale. Questo evento, oltre ad essere considerato straordinario, presenta un rischio significativo per l'incolumità dei progetti in essere. Vabbè, qui poi c'era una nota su The Mam. La SFC, che all'epoca era l'Antonio Sixi Fan Club, risponde a queste voci cercando di evitare la diffusione di notizie tendenziose e di prevenire situazioni di panico. Tu ti immagini il panico? Immagino. Comunicato 2, la colonna di fumo. Una colonna di fumo nero alternata a fumo bianco è apparsa misteriosamente dopo che il Sosia ha preso contatti con gli A. Gli abitanti autoctoni dell'isola sostengono che sia un segnale orario per innescare il meccanismo di spostamento di NZ. Si ritiene che questo meccanismo, che ha origini molto antiche, sia in grado di far ruotare NZ su se stessa. In questo modo NZ non comparirebbe su molte mappe nautiche. Quando appare la colonna di fumo nero, è bene rimanere nascosti o prodigarsi in alcuni rituali esoterici, pronunciando le seguenti parole: Apu, Apu, Mane, Arichi, Rangi, Apu, Apu, Rangi, Tapu, Tapu, Tapu, Rangi, Rangi, Bayata, Aroa. Questo è Maori, comunque. Cioè, come tutti sanno, è Maori. A me sembrano le Swahili, le parole asemiche di Atu. È Maori. Allora, le parole vanno pronunciate con un filo di voce, rispettando la sequenza 8, 16, 34, 32, 46, 82 o anche 10, 14, 64, 10, 8, 9. Subito dopo le parole vanno ripetute a voce molto alta adottando la sequenza al contrario. La somma dei numeri rimane sempre la stessa, nota a piedi pagina. In realtà la somma della prima sequenza di numeri è 218, mentre della seconda sequenza è 115. L'indicazione è volutamente falsa. Quando appare la colonna di fumo bianco, si attiva un segnale che è narrativo e corrisponde ai seguenti avvenimenti. 1. Rapimento della figlia di Isabella. E di Isabella E, che è una figlia di uno dei navigatori. Sta all'inizio. È una settimana dopo la nascita, da parte degli spiriti dell'isola che vanno sotto il nome di Raukumara, lo stesso nome di una catena montuosa dell'isola. Poi c'è il riferimento, diciamo, geografico, secondo il sistema Military Grid. Gli indigeni dell'isola si nascondono nelle caverne del monte Akurangi, anche qui c'è l'indicazione militare del posto. Il Sosia, scambiando segnali con gli A, convince Julius V a rapire il figlio di René D e a nasconderlo in una capanna improvvisata sulla spiaggia nella Hawk Bay. Non dovrebbe essere trovato. Gli indigeni si nascondono nella boscaglia, rapimento del figlio di Constantine H da parte di alcuni facoltosi commercianti di legname, ritrovamento dei figli di E, René D e Constantine H. È avventurosissimo. È molto avventuroso. Solo che... È molto avventuroso, perché poi va avanti questa cosa qua. E continua. Cioè, continua fino a che a un certo punto si interrompe perché sì, ma la cosa poi bella è che sia un po', allora intanto sono i comunicati, parlare di comunicato siamo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ovviamente. Il comunicato c'ha qualcosa, ci voleva. C'è qualcosa di anche inquietante per tanti aspetti. Esatto. Fa un po' quel periodo un po' brutto. C'è questo. Poi la storia quasi fantascientifica di questi eventi. La creazione del sosia che viene fuori dall'originale durante il sonno, come no, nei Body Snatchers del film celeberrimo. E poi la parte che adesso non ha letto Antonio, il comunicato 3, la torre del segnale, no? Sì. C'è questa cosa di sta torre benedetta che a me personalmente ricorda le torri di Barracks, in quella sì. parte dei film del Cut Up che si intitola Towers Open Fire, torri aprite il fuoco, dove c'è un delirio appunto antisemantico di Barracks. Che secondo me in qualche maniera c'è una nota, no, c'è una nota in fondo che veramente legge davanti. Chi è? No, questo? Perché quando dice il comunicato 3 è la torre del segnale, alcune domande che non hanno avuto ancora risposta: il bracciere all'origine del fumo, chi lo ha acceso, quando lo ha fatto e come viene alimentato. È vero che il materiale che brucia nel braciere è sconosciuto ai più? È vero che il materiale che brucia nel braciere proviene da corpi celesti? È vero che il materiale che brucia nel braciere è composto da un materiale prezioso? Come è avvenuto il ritrovamento dei bambini? Perché gli indigeni dell'isola, gli antichi Maori, credono che la sparizione dei bambini non sia mai avvenuta? Solo il sosia è al corrente del fatto che nei pressi del luogo dove si alza la colonna di fumo c'è la roccia dei due colori e c'è una nota, così chiamata per la sua colorazione cangiante tra la luce del giorno e l'oscurità della notte. La roccia dei due colori custodisce la misteriosa pietra verde. Questa pietra, gettata in acqua di mare, emana un bagliore verde tutto intorno. Tuttavia, non è visibile a occhio nudo. Per osservarla è necessario un dispositivo ottico ormai perduto. Niente. Che è un libro sostanzialmente per perdere le tracce. Sì, il libro stesso. Vi è una domanda, no, dal pubblico. È un'osservazione in realtà. Leggendo il libro, non l'ho letto la scorsa, però tutto quello che hai letto fino adesso, il tono con cui hai letto, sapendo che più o meno la datazione era a risalire a quel momento storico lì, è un enorme spiegone di sceneggiato. Un po' sì. È proprio lo stesso tono della sceneggiata. No, dello spiegone quando c'erano gli sceneggiati. Sì, che ti dicevano. Dice, sì. Riassunto delle puntate precedenti. Certo. A parte, cioè, non era facile, adesso tutte le volte poi cambiavano, riassumivano sempre più. Sempre meno, oppure sono dei dettagli, per cui tu dici. Però il tono è esattamente quella cosa. Sì. Solo che non c'è niente prima. No, ma. Riassumi quello che non c'è. La cosa interessante è che, essendo quel tipo di discorso lì, tutto quello che sta raccontando è un già dato, è un qualcosa che c'è, proprio come non già dato da oggi. Quello abbiamo perduto, non abbiamo visto esattamente. Certo. Ci siamo persi, non è una storia per cui abbiamo perso. Però non ci sono persi, perché è avventuroso, non è come in famiglia horror. È la descrizione di una. Non è la cosa interessante, è come stare a vedere proprio quei tre minuti iniziali. E poi un'altra cosa che volevo dire, che cioè, rispetto a quello che è discorso la presenza o meno della documentazione, in pratica siamo nella preistoria e adesso siamo entrati nella storia. Rispetto al fatto che non. Se fai una cosa e non c'è documentazione, non esiste. Sì. Storia. Sì, la ricordo solo io, o chi magari l'ha visto, chi non se la ricorda neanche più, sì. No, no, ma è proprio la definizione di storia. Sì, no? Sì. La scrittura prima e dopo la scrittura. Sono reperti archeologici. Certo. Sono un po' dei reperti archeologici, sì. Sono degli echi di una galassia lontana. Sì. Degli echi di una galassia lontana, sì, certo, ovvio. E un po' c'è il riferimento al cinema, un po' alla, appunto. Sì. Alla musica pop, anche alla musica c'è, pop, sì. C'è tantissimo anche materiale, sì, appunto pop, sì. Ripreso addirittura una canzone di Raff, sì, anche una canzone di Raff, cioè due versi di una canzone di Raff che dice sugli anni 80 cosa resterà degli anni 80. È un po' interrogativo, ci poniamo un po' tutti. Sì. Dici una cosa, poi magari Però sono curioso sull'appendice. Come nasce l'appendice? Allora, l'appendice è un... Che è questa qua. Sì, l'appendice... Cioè, questa appendice si presenta in forma di estensione del progetto, con derive e ipotesi pertinenti, ma anche contraddittorie, che potrebbero causare una falsa rimodulazione dell'ipotesi iniziale, che non si sa neanche quale fosse, diventando in qualche modo intenzionale nella forma della sua apparizione. Per questo va presa con le pinze. Quindi, in realtà, sono dei materiali proprio estratti, poi Fabrizio lo sa perché poi gli hanno sostituito alcuni che magari non funzionavano piuttosto che no, anche per questo, perché a me piace questa stampa qua, sono dei materiali che sono delle locandine, pubblicità, sì, dei pezzi, cioè io ritagliavo e raccoglievo, dovendo lavorare su Nuova Zelanda, tutti i cataloghi di viaggi. All'epoca non c'era internet, quindi si andava in agenzia, si prendeva i cataloghi e si tagliava, e io tagliavo le figure dei vari, infatti ci sono la pubblicità della TVA, per esempio, esattamente, lineare. Con dei testi che in realtà non c'entrano niente, hanno a che fare, sono dei cut-up un po' più teorici, no? Sempre presi, sono un po' quei grassetti che c'erano una volta, come didascalie, per esempio nelle riviste, che ne so, come la Domenica del Corriere o queste cose che si trovano nelle sale dei barbieri, c'erano queste mega fotografie con delle didascalie in grassetto, e queste qua mi sembra soltanto che sono delle didascalie che non c'entrano niente. No, non immagino. C'entrano molto, nel senso che potrebbero comporre uno storyboard, tanto è vero che viene citato addirittura una dichiarazione di David Lynch quando parla dello script cinematografico, e quindi è una forma di storyboard che però non porta da nessuna parte, perché dove si mescolano vari materiali di varia natura, che però erano inerenti al luogo in cui è stato raccolto il materiale per creare poi quella performance. Certo. Io ovviamente, ripeto, se no sarebbe stato un libro gigantesco. Cioè, esatto, certo. Io ho proprio selezionato quei materiali che potevano essere più inerenti, è un po' difficile dirlo, però un po' più, come dire, che si potevano, ecco, accostare l'uno all'altro, essenzialmente. Quindi, e i testi sono ondivaghi in questo modo qua, che spostano sempre un pochettino la possibilità, però sono fotografie, tanto è vero che quando Fabrizio mi chiedeva se avevamo l'originale, no, se avevamo il, come si dice, il permesso per cui... Ah, certo. Ma sono tutti i ritagli di giornale degli anni 80, valli a trovare, certo. Vai a trovare, però abbiamo scritto lo stesso che, come dire, se c'è qualcuno che vuole avanzare qualche diritto, si faccia vivo, non so chi, però provi a farlo. Sì. Sono solo se, giornali. Se la TVA esiste ancora, sì, forse sì. La TVA esiste? Non lo so. Non lo so. Allora, siamo aperti a domande, questioni. Altrimenti... No, io sono molto contento che questo progetto sia arrivato in fondo e anche di averlo scelto. Fra le tante cose che potevo scegliere, sono soddisfatto di aver scelto questo qua. Poi, non so... Avrei potuto scegliere Famiglia Oro, però non so come... Va benissimo. Non so. Non so. Poi ce n'è un altro, ce ne sono parecchi, insomma, però... Beh, continuiamo a seguire l'attività di Antonio Sixti, perché... Chissà cosa viene fuori. Ci saranno ancora molte sorprese. Allora, mi corre l'obbligo di ringraziarvi, perché non l'ho fatto all'inizio, quindi di ringraziare chi ha ascoltato. Di nuovo, ovviamente, Alberto e Antonio si merita un applauso a questo punto. Direi che troppo.